c'è molta apprensione, ovviamente, soprattutto molto cordoglio per le vittime, per i familiari, per i feriti, per chi sta lottando in questo momento per la vita e per una situazione che ha colpito tutti, anche noi, diciamo, che eravamo qui a lavoro in Parlamento, siamo rimasti bloccati fino a molto tardi questa notte alle 4, quando ci sono state date indicazioni su come lasciare l'edificio, ma molti dei nostri colleghi erano bloccati nelle strade, nei ristoranti soprattutto, in attesa di indicazioni che poi tardavano ad arrivare, perché come sapete purtroppo la polizia e le autorità stanno ancora cercando di individuare il o i responsabili, perché la dinamica ancora è poco chiara, quindi molta apprensione, ma il Parlamento ha deciso di proseguire nei lavori, quindi già da questa mattina molto presto siamo rientrati in Parlamento e abbiamo svolto i lavori di aula come era previsto, abbiamo effettuato anche le votazioni anche per dare un segnale, insomma, che per in un momento anche di grande difficoltà e di grande dolore, comunque non vogliamo farci travolgere, ecco, dalla paura. Poi avete avuto aggiornamenti nell'arco della giornata anche rispetto a se si sia chiarito se è stato definito come appunto un attentato terroristico o meno, e poi anche sulle, insomma, su come stanno andando le indagini della polizia? Purtroppo abbiamo avuto notizie molto frammentate, nel senso che ancora è prematuro poter capire quello che è successo. Mi pare di capire che le stesse autorità francesi non siano state ancora in grado di confermare una matrice terroristica di questo avvenimento, quindi aspettiamo, è bene avere un atteggiamento prudente in questi casi per capire quello che è accaduto e quello che sta, ahimè, ancora accadendo. E qui seguiamo, insomma, come tutti, le notizie che arrivano man mano, il Presidente del Parlamento qui riceve le informazioni direttamente dalle autorità francesi e poi quando è necessario ce le passa, insomma, però adesso il Parlamento è aperto, insomma, dopo che è stato chiuso fino alle 4 di notte, appunto, poi adesso è aperto, insomma, stiamo lavorando qui senz'altro in una situazione di massima allerta in tutta la città, anche perché si sta ancora cercando questa persona, però non abbiamo maggiori informazioni in questo momento rispetto a quelle che vedete circolare sulla stampa. Questo peraltro invita tutti noi anche a essere molto prudenti nelle dichiarazioni, perché mi sembra che non aiuti chi tenta già di strumentalizzare politicamente fatti gravi e drammatici come quelli accaduti ieri sera, peraltro con persone che sono ancora a rischio della vita, e mi sembra molto poco opportuno e molto poco utile ad affrontare un momento di difficoltà per tutti, perché è chiaro che quando succedono cose come queste emerge tutta la nostra fragilità e anche dei sentimenti di paura, però ecco, è bene invece dare una risposta ferma da parte delle istituzioni, rimanere uniti e soprattutto pensare a come stare vicino a chi è stato più duramente colpito da quello che è accaduto ieri.